Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Filiasi. Se potessi scegliere, considerando come sono cresciuto e quello che ho fatto, allora preferirei non essere mai nato. Oggi a Destini Incrociati scopriamo che cos'è la lotta e cosa vuol dire lottare per sopravvivere, lottare per conoscersi e venire a patti con se stessi, lottare per guadagnarsi un posto dignitoso di fronte agli altri. È la storia di un uomo che non avrebbe mai voluto nascere, ma che col tempo è riuscito a vincere le sue paure più profonde. I flash dei fotografi sembrano voler scavare, uccidere, paralizzare ogni umanità dal volto dei protagonisti appena usciti dalla grande sala ricevimenti. Appare il regista premiato qualche istante prima. Indossa uno smoking che riesce poco a ingentilire i tratti da figlio di emigrati russi cresciuto nel sobborgo di Brooklyn. Darren Aronofsky è frastornato, quasi timido, mentre stringe fra le sue mani il Leone d'Oro che ha appena vinto per il suo ultimo film. Le sue ultime opere sono state difficili, lunghe, piene di difficoltà e complicazioni. Non avrebbe mai creduto di vincere un premio tanto ambito con un film piccolo, semplice, come questa ultima opera, concepita per trovare riposo dopo le fatiche passate. Il film si chiama The Wrestler, insignito del Leone d'Oro dalla giuria del 65esimo Festival di Venezia del 2008, presieduta dal regista tedesco Wim Wenders. Un film piccolo, triste, dove i perdenti lo sono fino in fondo, inghiottiti da una provincia americana che non arriva a toccare neppure i lembi del grande e dorato manto chiamato il sogno americano. Dalla porta del salone, Aronofsky è seguito dal protagonista del film. Dopo l'entrata poco appariscente del regista, una figura quasi dimessa ed esitante in bianco e nero, l'uomo che attira l'attenzione dei fotografi è una festa per gli occhi. Più che un attore, è un vero personaggio, a cominciare dalla cravattona rosa a grossi pois bianchi, lasciata lenta sulla camicia con il colletto enorme, allargato come due ali d'uccello sulla giacca da dandy. I capelli sono lunghi e mal legati da un elastico. Le mani sono impressionanti, grosse, dalle unghie ricurve sui polpastrelli, mani che hanno lottato, che hanno picchiato duro, che la vita non ha ingentilito in nessun modo. Mai come in questo caso, l'attore e il protagonista della storia sovrappongono la loro esistenza in modo quasi totale. Il film racconta di Randy the Ram Robinson, un lottatore arrivato al capolinea ma che ancora cerca disperatamente di resistere. L'attore che ha dato il volto, e forse la sua stessa vita, a Ram, è anche lui un uomo che è caduto un'infinità di volte. E il suo viso lo dimostra in ogni strana, immobile piega. Il suo nome è Mickey Rourke. Mickey Rourke. Le connessioni fra Ram e Mickey sono molto simili. È molto a che fare con il fatto che quando Mickey è arrivato sul set, abbiamo trascorso almeno 2 mesi riguardando lo script e riscrivendolo parola per parola. Rourke sa che con questo film può finalmente riuscire a esprimere tutto quello che ha vissuto negli ultimi anni e vuole allora che tutto sia perfettamente corrispondente a quello che sente veramente. In pratica, ogni riga che recita nel film l'ha riscritta per adattarla a sé. In The Wrestler, il volto di Randy the Ram si confonde con quello di Mickey. È difficile non credere che il film sia quasi un biopic, uno di quei film biografici che svelano la vita segreta di un personaggio famoso. Stesso naso rotto dai 1000 combattimenti, stessi zigomi accartocciati, gli occhi resi piccoli dall'uso di sostanze che gli hanno gonfiato la faccia, la pelle rovinata, i segni dei tagli e delle piccole ferite. I capelli, che Randy si decolora con le tinture fatte in casa, sono solo poco più lunghi di quelli che Mickey cerca di trattenere ora con un fiocchetto durante le interviste. Le critiche osannano l'interpretazione di Rourke. Tutti gli augurano di vincere un Oscar. Sarebbe bello, ma a Mickey interessa soprattutto essere riuscito a compiere la sua più grande impresa, aver recitato il suo ruolo migliore ed essere riuscito a tornare alla grande, di nuovo in piedi, dopo 15 anni di oblio e di autolesionismo. E non lo nasconde. Quando vince il prestigioso BAFTA, l'Oscar del cinema inglese, ne parla apertamente durante i ringraziamenti. Bella statuetta. Grazie al BAFTA, alla Fox Searchlight, a Darren Aronofsky, che mi ha dato una seconda possibilità, dopo che ho sputtanato la mia carriera per 15 anni. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? You've ever seen a one-legged man, then you see me. Dieci anni sono lunghi, soprattutto se sono trascorsi a lottare sul ring. È quello che più o meno ha fatto Mickey Rourke, che abbandona improvvisamente all'apice del successo il cinema per tentare la carriera di pugile professionista. 15 anni trascorsi a picchiare, a farsi picchiare sui ring di mezza America. È questa la prescrizione della ricetta folle di Mick per tirarsi fuori dalla strada dell'autodistruzione. Lottare contro gli altri diventa un po' come lottare contro se stessi, nella speranza di vincere. Ogni pugno per Mick è l'occasione per stordirsi, un momento per dimenticare, un'occasione per ribellarsi al mondo del big business, alla superficialità della vita, al senso perduto delle cose. Come per Rem, solo sul ring sembra che la vita acquisti una realtà, uno spessore che altrimenti sembra sfuggire a Rourke. Solo il mondo che circonda gli incontri sembra avere senso. Quel mondo maschio fatto di sudore, urla, impacciata amicizia, solitudine, birra. Mickey sembra trovare sollievo nei colpi che riceve, come un tempo sembrava trovare un sollievo nella recitazione. Un tempo molto lontano che vale la pena di andare a ritrovare perché ci permette di incontrare la persona con la quale Rourke ha incrociato il sogno di un'altra carriera, di un'altra vita. What do you got here? That was delivered by a messenger this morning. What's this about? He's here. Philip André Rourke Jr. nasce nel mese di settembre del 1952, pochi giorni prima che l'estate si spenga e l'autunno faccia immalinconire gli animi. La sua è una famiglia di cattolici irlandesi che, alla faccia del vincolo indissolubile, si sfascia quando il bambino non ha ancora 6 anni. La madre si trasferisce a Miami, dove si sposa con un poliziotto, ma delle spiagge bianche assolate il giovane Rourke gode ben poco. Con la nuova famiglia vive nel quartiere afroamericano di Liberty City, poco Miami, e molto Vice. Vivevo in una casa in cui mia madre ci riprendeva per ogni cosa. Urlava sempre. E non ti rendi conto di tutta quella merda che ti rimane addosso. Fin quando non cresci e ti rendi conto di cosa significasse. Ma allora non capivo perché. A Liberty City non c'è molto da fare se non frequentare svogliatamente la scuola e stare in strada con gli amici, tutte compagnie non esattamente a modo. Già a 12 anni Mickey, che sul ring si fa chiamare André, vince i suoi primi match. Pesa solo 50 kg, ma al suo allenatore sembra già ben avviato sulla strada della box. A 17 anni, dopo alcuni infortuni, i dottori gli consigliano di abbandonare la box per almeno un anno. A differenza del suo personaggio Randy the Ram, che persiste a frequentare i ring, Mickey non solo accetta il consiglio, ma decide repentinamente di smettere con la box e si trasferisce a New York. In realtà volevo fare carriera come pugile. Poi mi sono beccato 2 gravi commozioni da giovanissimo e ho smesso per un anno. Non so come ho iniziato a recitare, improvvisamente ha iniziato a interessarmi molto. Vivevo in un hotel nel Village. E c'era questo signore che mi prestava dei libri, e leggere i libri ha iniziato a piacermi. A New York, Mick arriva con $400 presi in prestito dalla sorella e un inaspettato interesse per la recitazione. Si mette in testa di entrare all'Actor Studio e così, per poter sostenere gli esami di ammissione, inizia a prendere lezioni da un insegnante della scuola, Sandra Sickett. Voleva assolutamente prendere lezione e ogni tanto arrivava con le mani piene di monete. Anni dopo ho saputo che spesso rinunciava al cibo per parecchi giorni, pur di pagarsi le lezioni. Ma riuscire a entrare nel mitico Actor Studio vale qualsiasi sforzo. La scuola di recitazione newyorkese è la più famosa del mondo. Fondata nel 1947 da 4 grandi registi, fra i quali c'è il mitico regista Elia Kazan, quello di La Valle dell'Eden, un dramma chiamato Desiderio e Fronte del Porto, per intenderci, la scuola diventa un polo di attrazione per chiunque voglia diventare un attore. Soprattutto grazie a Lee Strasberg, che la dirige e vi insegna dal 51 fino alla sua morte, avvenuta nel 1982. Da Strasberg passano tutti: Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Paul Newman, Robert De Niro. Di lui Kazan diceva: aveva intorno a sé un'aura da profeta, da mago, da stregone, da psicanalista, da temuto padre di una casa ebrea. Del suo metodo di recitazione, profondamente influenzato dal famoso regista russo Stanislavski, Strasberg prende come perno centrale la psicologia dell'attore. La persona che recita è la persona che vive. La promessa che Sandra Sickert fa al suo nuovo allievo Mickey è di riuscire a farlo entrare nella prestigiosa scuola. I due si mettono a lavorare sodo e poco a poco il rapporto che lega la maestra con l'allievo si fa profondo e pieno di stima. Lentamente Sandra riesce a entrare nel mondo chiuso e sulla difensiva di Mickey e scopre che dietro la maschera da duro c'è una profonda infelicità. Credo che abbia avuto un'infanzia molto dura. Non è mai riuscito a perdonare sua madre per aver lasciato il padre e per averla dovuta seguire molto lontano, perdendo così di vista il padre. Ci vuole studio, impegno e costanza. Ma alla fine Mickey riesce a entrare alla corte di Lee Strasberg. All'Actor Studio inizia la nuova vita di Mickey. Alla violenza si sostituiscono i dialoghi da mandare a memoria. Alle botte e al sangue si sostituisce l'ansia della performance, l'eccitazione del palcoscenico. All'inizio l'unico attore che conoscevo era Charles Bronson. Non sapevo chi fossero Marlon Brando o Monty Clift, finché un amico non mi diede le loro biografie da leggere. E iniziai a capire. È un mondo, una vita diversa. Ne ha la certezza quando il padre lo va a trovare. Mi ha portato al ristorante e mi ha offerto una birra, mentre lui si è bevuto almeno 20 screwdriver. Poi mi ha regalato $15 e mi ha detto: ci vediamo presto. L'ha più rivisto? No. Dopo qualche anno è morto alcolizzato. La gavetta non è facile per nessuno, ma quella di Mickey è veramente dura e faticosa. Ormai non è più un ragazzino e sta ancora aspettando la sua grande chance. There'll be a time when I won't remember what I was afraid of, and I'll be swimming in the sea. No banging on this glass for me. My eyes saw red when my life turned blue, so I'm leaving everything that's true. And I'll jump into a brand new skin. Siamo in pieni anni Ottanta. Il mondo si sta trasformando insieme alle spalle imbottite delle giacche, ai capelli fonati e a una certa leggerezza che si sente nell'aria. L'economia sembra andare alla grande. Il mondo appare scintillante e le occasioni sono pronte per essere afferrate. Così, quando a Mickey se ne presenta una che porta con sé i segni del successo, non ci pensa due volte e decide di afferrarla. L'occasione arriva per mano di un regista inglese, Adrian Lyne, reduce da un grande successo ai botteghini con Flashdance, la storia di una giovane operaia con la passione per il ballo che aspira a entrare nella migliore scuola di danza della sua città. Il regista ha uno stile patinato, che gli arriva da un solido background di regista pubblicitario. Suoi sono fra i più famosi spot dell'epoca, quelli più seducenti e glossy. Dopo il successo di Flashdance, Adrian Lyne può permettersi di scegliere e per il suo nuovo film può soprattutto permettersi il lusso di ingaggiare un attore non così famoso come Rourke, di quasi 34 anni. Tanto per la parte femminile, ha in mente un'attrice che ha già fatto sensazione nel suo ultimo film, Mai dire mai, che segna il ritorno di Sean Connery nei panni di James Bond. Un'attrice che ha notato soprattutto sulle copertine di Playboy. L'attrice scelta da Adrian Lyne è bellissima. Una stupenda donna del sud, originaria della Georgia per l'esattezza, che con i suoi lunghi capelli biondi e la bocca tumida e sensuale ha già conquistato il pubblico americano, o perlomeno quello maschile, mostrandosi nuda sulle pagine della più famosa rivista per soli uomini, Playboy, del mitico Hugh Hefner. Mickey Rourke è l'outsider, quella donna la vera star. È l'occasione perfetta. Lasciarsi andare, il resto poi viene da sé. Tutto facile, maledettamente facile, per un uomo che fino ad ora ha sempre camminato in salita. Chiede al suo agente di nuovo il nome di quell'attrice con cui dovrà recitare. Non vuole fare brutte figure quando si presenterà. La risposta se la annota in una scatola di fiammiferi. Kim Basinger. Oggi a Destini Incrociati la vita di un lottatore come Mickey Rourke si sfiora per un attimo con quella di una bionda destinata a diventare qualcosa di più di una semplice partner. La loro sarà un'amicizia profonda e salvifica che riuscirà a non soccombere sotto i colpi più duri. Ma andiamo per gradi. È il 1986 e Kim e Mickey vengono scritturati dal regista inglese Adrian Lyne per un film tratto dal romanzo della scrittrice Elizabeth McNeil. La storia non sembra di grande spessore. I due personaggi del film sono John, che lavora a Wall Street, e Elizabeth, una gallerista appena divorziata. Già si capisce che la storia dei due protagonisti si svolge nei tranquilli binari del mondo della upper class newyorkese, in ambienti rassicuranti, dal lusso patinato e enfatizzato dalla fotografia scelta da Lyne. Il film è la storia dell'incontro e della relazione che nasce fra John ed Elizabeth, la cui durata dà il titolo al film: 9 settimane e mezzo. Negli Stati Uniti, famosi per il loro puritanesimo, il film non ha il successo sperato, ma appena viene distribuito nel resto del mondo fa saltare il botteghino. In men che non si dica, Rourke e Basinger diventano i sex symbol degli anni Ottanta. Le scene di sesso vagamente sadomaso che costellano la pellicola diventano un cult, a partire dalla famosissima scena del cubetto di ghiaccio che Mickey fa sciogliere sul ventre di Kim bendata, o quello dello spogliarello dietro le veneziane che perseguiteranno per tutto il decennio i loro protagonisti. Sebbene anni dopo Kim confessi che baciare Rourke fosse come baciare un posacenere, la chimica fra i due attori sembra essere fortissima. I due attori girano le scene erotiche con la totale complicità del regista, che usa tutti gli espedienti imparati dalla pubblicità per esaltare il prodotto, in questo caso i corpi e l'attrazione che si instaura fra John ed Elizabeth. Il risultato farà scuola. Mick e Kim sullo schermo sembrano incarnare con la loro bellezza i simboli perfetti del mondo WASP, icone di un'epoca che pare accedere al sogno americano con facilità. Tutto il contrario di come è iniziata la vita di Mick. Siamo andati oltre, uno di noi due doveva dire basta. Tu non l'hai mai detto. E io forse ho aspettato troppo. Il film sembra lanciare la carriera di Rourke e Basinger nell'iperspazio, ma solo Kim sa approfittare della grande occasione che le si presenta. La giovane ragazza georgiana capisce il gioco e con intelligenza lo cavalca, trasformandosi in breve tempo da semplice modella o giovane attrice di secondo piano in un'icona degli anni Ottanta. Del resto, già ad Athens, la città dove è nata nel 1953, Kim era una delle ragazze più famose, quella che vince tutti i concorsi di bellezza del paese. Buon sangue non mente. Il padre, Don, sa cosa significa stare sul palco, visto che è stato un musicista prima di impiegarsi in banca per mantenere la famiglia. La madre, Anne, è una nuotatrice provetta e ha partecipato a molti film di Esther Williams, i famosi musical marini che piacciono tanto negli anni 40, come Bellezze al bagno. Quando Kim diventa Miss Georgia Junior, le viene offerto un contratto con la famosa agenzia di modelle Ford, di cui diventa per anni una delle ragazze più richieste. Ma come abbiamo visto, Kim non è una ragazza che può accontentarsi di restare una modella e in breve la sua carriera come attrice decolla. Vicky Vale. Bruce Wayne. Dopo 9 settimane e mezzo le viene offerto il ruolo di Vicky Vale nel Batman di Tim Burton e in altre pellicole che riescono a regalarle l'impressione di essere una donna accorta nel saper gestire la propria immagine. Mickey Rourke fa altre scelte, non così ragionate, anzi. Il successo di 9 settimane e mezzo sembra frastornarlo più che fargli piacere. Invece di godere di questa insperata forma di upgrading sociale, Rourke sembra stare stretto nei panni dello smaliziato broker finanziario di 9 settimane e mezzo. La sua storia è un'altra, una storia che sembra somigliare molto più a quella che 20 anni dopo porterà sullo schermo con The Wrestler. ma nessuno sembra capirlo, nessuno sembra aiutarlo a traghettare la sua anima inquieta da una condizione di confusione emotiva ai più tranquilli ed equilibrati lidi della riuscita professionale. Questa è una cosa che non insegnano all'Actor Studio, che oltre alla recitazione c'è il business, la politica, bisogna essere politici. Io non avevo ricevuto quel tipo di educazione. Non ero abbastanza sofisticato, con abbastanza esperienza da capire che bisognava essere politici. Sceglie due film difficili, duri. Sembra che il suo piacere maggiore sia quello di sconfessare chi lo etichetta come sex symbol. Si trasforma nello scrittore alcolizzato Chinaski, l'alter ego di Bukowski, nel film Barfly, e poi nel tormentato detective protagonista di Angel Heart, diretto da Alan Parker, con un satanico Robert De Niro. Angel Heart è un misto fra un thriller e un horror che disturba, inquieta. Insomma, un ruolo adatto a Mick, che si sente molto più a suo agio nei panni del detective senza arte né parte Henry Angel, preda del diavolo in persona, piuttosto che in quelli del fichetto John Gray, che indossa solo completi impeccabili. E anche se in Angel Heart c'è una scena di sesso molto spinto con l'attrice Lisa Bonet, questa è lorda di sangue. E sul letto dove si compie l'atto sembra aleggiare una sensazione di maledizione e orrore lontana a mille miglia dalle ovattate scene girate con Kim. Mickey preferisce così. Dopo Angel Heart scrive un film tutto suo, Homeboy, sul mondo della boxe. E un Bob Dylan entusiasta ne commenta l'interpretazione nel suo primo libro di memorie. Poteva spezzarti il cuore con uno sguardo. Il film partiva per la luna appena Mickey Rourke entrava in scena. Nessuno poteva reggere il suo confronto. Bastava che ci fosse, senza neanche bisogno che dicesse salve o addio. L'interpretazione di Mickey non deve aver commosso solo Dylan, se poco dopo gli arriva un'offerta addirittura da oltreoceano, anzi, proprio dall'Italia. Dopo aver recitato accanto al diavolo in Angel Heart, Rourke viene scelto dalla regista italiana Liliana Cavani per il ruolo di San Francesco. È un Mickey molto perplesso, quello che sbarca dall'aereo a Roma. Si chiede chi possa mai volerlo santo. Ma l'incontro con la regista italiana è uno di quelli che contano nella vita di Rourke. Il film segna l'inizio di una profonda amicizia e stima fra l'attore e la Cavani. Voglio solo dire ciao a Liliana Cavani, uno dei miei registi preferiti al mondo. Oh, come vorrei essere con te, Liliana, a Roma, a mangiare la pasta alla bolognese. C'è qualcosa dietro Mickey che scava e crea profonde gallerie che raggiungono e portano alla luce la sua parte ferita, quella più autolesionista e segnata dall'infanzia difficile. Qualcosa che continua ad allontanarlo da Hollywood, da quel mondo appena sfiorato con 9 settimane e mezzo. È per seguire uno di questi suoi istinti peggiori che Rourke sceglie di interpretare un film di terza categoria, Orchidea Selvaggia, un polpettone erotico ambientato in Brasile. Il problema è che stanotte non riuscirò a prendere sonno finché non sentirò la fine della storia. Orchidea Selvaggia è un film da dimenticare, se non fosse che è su questo set che Rourke incontra l'unica donna di cui si innamora nella sua vita, Carré Otis, con cui avrà un rapporto tormentato. Ho incontrato una persona ferita come me, in tutti i sensi. Era selvaggia e pazza come me. Con Orchidea Selvaggia, Rourke sceglie consapevolmente di rovinare la sua carriera e pare seguirne la parabola discendente con una sorta di affettuoso masochismo. Con la Otis porta avanti una relazione di dipendenza, segnata dalla droga e dalle violenze. Fuori dal privato, i rapporti con il mondo dello spettacolo sono sempre più difficili, contrassegnati da improvvise ribellioni e scatti di furore nei confronti di tutti. Vedi, ho mandato a quel paese talmente tanta gente a Los Angeles, che in pratica sono segnato sulla lista nera. Rourke non riesce a cavarsi di dosso quel ruolo di belloccio e inconsistente broker di 9 settimane e mezzo. Lui così diverso, problematico. La Basinger è lontana, lei ha capito il giro, lei è nata in paradiso. Per Rourke si aprono le porte dell'inferno. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati la vita si fa lotta quando si parla di Mickey Rourke, un destino contro, e anche grazie all'amicizia di una donna meravigliosa come Kim Basinger ha saputo ritrovare il centro della sua esistenza. Ma la strada verso la cura di sé è lunga e costellata di combattimenti. Persino i suoi amici più stretti, come Eric Roberts, il fratello della grande attrice Julia, non riesce a capire questo bisogno di farsi riempire di pugni di Mick. Mi chiedevo perché si comportasse così. Poi ho capito che Mick è uno che viene dal niente, quindi per lui tutto andava conquistato. Certo, avrebbe potuto anche evitare di capirlo facendosi massacrare la faccia. Ma alla fine quanti altri avrebbero potuto comportarsi così? Nel 1991 Mickey ritorna sul ring perché non riesce a ritrovare il rispetto di se stesso. Salire su quel quadrato, circondato da uomini che urlano, chiedendogli di dare tutto se stesso in un combattimento all'ultimo sangue, dove l'unica cosa che conta sono i pugni che riesce a mettere a segno, ecco, quello improvvisamente sembra avere molto più senso dei produttori che vogliono essere adulati per darti una parte, dei registi che pretendono da te che la tua anima si lasci plasmare dalle loro mani. Sul ring, invece, le regole sono poche, chiare, non lasciano scampo, non ti sorprendono mai. Tu mi picchi, io ti rispondo. Al sangue rispondi col sangue, alla rabbia si risponde con la rabbia. La sua carriera pugilistica non lascia il segno, se non sulla sua faccia. I colpi sono tali che in breve si ritrova con uno zigomo mezzo rientrato, la lingua spaccata, le costole rotte. Inizia a soffrire anche di perdita a breve di memoria. È insomma un rottame. Per riparare ai danni subiti sul ring, Mick ricorre alla chirurgia plastica. Ma a volte il rimedio è peggio del problema. In seguito dirà di essere finito sotto le mani di un cattivo chirurgo, ma il risultato è che il suo volto assume connotazioni grottesche, in un inutile tentativo di rabberciare ciò che ormai forse è rotto per sempre. La nuova faccia di Rourke sembra scolpita malamente in un blocco di plastilina dalle mani inesperte, forse anche dispettose di un bambino. E pare abbia perso tutta la mobilità dell'attore per regalargli una nuova fissità che sembra nascondere meglio l'anima dell'uomo. Ma Mickey non vuole smettere. Si fa allenare da un ex componente degli Hells Angels e ogni volta che entra in campo si fa precedere da una canzone dei Guns N' Roses che il suo amico Axl Rose gli ha concesso in uso, Sweet Child of Mine. C'è un momento, forse, in cui Mickey si chiede se tutte quelle botte abbiano compiuto il miracolo e lo abbiano purificato da tutte le brutture che ha conosciuto nella sua vita. Forse pensa di sì, quando cerca faticosamente di tornare a una normalità dopo gli anni della boxe. Ma presto si rende conto che le cose non sono mai molto facili per lui. Quello che non sapevo è che dopo quei 5 anni di box ce ne sarebbero voluti altri 10 per rientrare dalla porta principale. E quindi ho vissuto di speranza e di attesa. Quando agli inizi degli anni 90 lascia il mondo del cinema, i suoi rapporti con chi ci lavora hanno raggiunto il punto di rottura. La maggior parte dei registi non vuole lavorare con lui per via del carattere ribelle e distruttivo che rende le riprese troppo difficili. Mick non offre nessuna garanzia alla produzione. Sono invece anni felici per Kim. Si sposa con Alec Baldwin, che nonostante abbia 5 anni meno di lei, la fa sentire protetta, amata, completa. Con lui ha una figlia, Ireland, a cui si dedica mettendo da parte la carriera di attrice. È come se in lei ci sia una saggezza molto semplice, ma di grande senso pratico, che le permette di compiere scelte sicure, equilibrate. Ed è lo stesso felice istinto che le fa accettare, nel 1997, il ruolo della prostituta Lynn, truccata come Veronica Lake, che fa innamorare il poliziotto Russell Crowe in L.A. Confidential. Con questo ruolo vince l'Oscar per la migliore attrice non protagonista nel 1988, premio che ritira fasciata in uno splendido vestito color oro, come il periodo che lei sta vivendo. Per Mick gli anni trascorrono perdendosi sempre di più. Sembra ritrovare il suo smalto nei panni di Marv, nel film di Robert Rodriguez, Sin City. Ma per il resto la vita non è tenera con lui. Forse è per questa ragione che il regista Darren Aronofsky pensa a Rourke quando scrive il personaggio di Randy "The Ram" Robinson per The Wrestler. Ho trascorso molto tempo in palestra, cercando di migliorare il mio fisico e perdendo quasi 15 kg. L'allenamento è stato molto difficile, perché era uno sport di cui non sapevo niente. Questi sono professionisti, a cui servono molti anni per sviluppare una tecnica. E ho dovuto affidarmi agli altri wrestler e fidarmi di loro. Ed è un mondo molto interessante. Gente con un forte senso del cameratismo. Con The Wrestler, Rourke interpreta forse il ruolo della sua vita. E il mondo del cinema glielo riconosce, riammettendolo nel suo Olimpo con tutti gli onori. Ma fra tutti i complimenti, ce n'è uno che arriva inaspettato e per questo più importante di tutti. Nell'epoca di internet, delle email e dei messaggini al cellulare, Rourke un giorno riceve una lettera, una vera e propria lettera come quelle che si usavano un tempo. La sottile busta bianca profuma leggermente. L'indirizzo è scritto con mano elegante, dentro una lunga lettera di una donna. Caro Mickey, non sai il piacere che mi ha fatto vederti nel film The Wrestler. L'emozione profonda che mi ha... Leggendo la lettera, Mickey non riesce a trattenere le lacrime. Kim Basinger, la donna con la quale ha imboccato una strada di cui non capiva il senso, ora è lì a dirgli che quel senso è chiaro e che l'ha conquistato con le sue mani. Quando entrambi gli attori vengono chiamati per recitare nel film The Informers, il grande incontro sembra vicino. Ma in realtà i due non si incontreranno mai sul set, perché i protagonisti di scene sempre separate. Aspettano il giorno della prima del film, sul red carpet. L'attore, in un bizzarro completo giallo-senape, si aggira senza sosta di fronte ai flash, quasi non comprendesse il perché di quelle grida, di quei richiami. È nervoso. Si accende una sigaretta, si aggiusta i capelli, aspetta. E improvvisamente due sottili braccia gli circondano il collo, lo abbracciano. Mickey ha il sorriso di un bambino felice. Kim è bellissima e gli sorride luminosa. Mickey quasi trema, è emozionatissimo. Ed un tratto i flash sono solo luce che sottolinea la risurrezione di un uomo. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.